Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. Partito, se vota sempre solo quello che piace a una parte, anche consistenti quel partito, perde l'altra parte, soprattutto se lo fa dicendo vi asfalto, vi ho eliminati, siete spacciati, le minoranze fanno ridere. Con le stringhite in sui calzoni. No, che abbasso ci vale, signora. Signora, viva, viva, viva. No, che abbasso. Noi siamo per tenere tutti dentro. Si crede bello come un Apollo e sorella come un Apollo. Io faccio una proposta a chi è rimasto nel PD. Uscite dall'asfalto. Cioè, proprio un film di fantascienza. Liberatevi da questo magma. Fate qualcosa. Dalle vetrine di famiglie. E allora ci siamo, il dado è tratto. Pippo Civati se ne va dal PD. So che il tema appassionerà le vostre colazioni lunghe. Vi vedo già tra un cappuccio, un cornetto, una pasta, una spremuta a dire: porca miseria, ma tu sei convinto che Pippo Civati è... Andiamo a lavorare lo stesso oggi. Con le stringhe sui calzoni. È certo che però. Come facciamo? Beh, poi Renzi è terribile. Dico, no, no, ma che abbasso? Cioè, viva Civati, tutti dentro. Commento di Renzi ai suoi. Civati non porta un voto. Ecco. Questo è Renzi, il crudele Renzi, Crudelio Demon. Allora, buongiorno, questo è 24 mattino, sono le 6.32 minuti, vi abbiamo svegliato così con Pippo Civati. Notate che sono le 6.32 minuti, non le 6, come una inutile petizione che gira su change.org mi chiede di volermi far iniziare alle 6. Sono le 6.32 minuti, sentite. Insieme a Peter Bescapè in regia, insieme a Lorenzo Nespoli in redazione, io ancora negli occhi i gol di Messi. Vabbè, sono cose che capitano. Ah, l'inno del Barcellona questo. Beh, ragazzi, che partita. Allora, saluto subito un uomo, un mito, una satira vivente, Vincino! Buongiorno. Buongiorno, Vincino. Oggi dobbiamo raccontare qualcosa, tu che stazioni alla camera, praticamente sei un incamerados, di quelli che tra poco dobbiamo raccontare di episodi successi alla camera, clamorosi, clamorosi. Come stai? Tutto bene intanto? Tutto bene. Benissimo. Tutto bene. Mi hanno fatto commendatore. Ti hanno fatto commendatore come Davide Serra, il CEO di Algebris, tanto grande. Dice, quanti commendatori ho fatto, sapeste? Ma manco guardava le liste. Ma, no, tu sei stato due volte in galera, anche per questo puoi diventare commendatore. Chiaramente, questo è un a favore, no, praticamente. È un elemento decisivo a favore. Sì, poi come dire, oggi è il giorno che ieri ha firmato l'Italicum, tutti felici, sì, anche sì. Voi l'ho visto, sì, sì, sì. No, Civati se n'è andato, ancora la gioia aumenta. No, no, ma perché povero Civati, noi siamo inclusivi, tutti dentro. Non lo so, perché ha voluto mettere la ciliegina su questa giornata. No, vabbè, Vincino, comunque ti voglio presentare una straordinaria donna, che è una nostra amica da un po' di tempo, pensatrice. Veronica pensatrice del Fatto Quotidiano. Buongiorno Veronica Gentili, la conosci, caro Vincino? No, è peggio per piacere. Te piacere. Molto piacere, piacere. Ecco, Veronica Gentili scrive sul Fatto Quotidiano. Ogni tanto la vedi magari la gabbia da paragone, quella gabbia di Matti. Ogni tanto va in TV, fa teatro, è de sinistra, de sinistra di quelle proprio... Ahimè sì. Ma sei de sinistra de Civati o de sinistra... Guarda, ma infatti voi ridete, io sono molto contenta. Perché? Perché Civati è uscito dal PD. Ah, appunto. Ma sì. Io non sono proprio contentona stamattina. Sì, perché tu stai con Civati, tu seguiresti. Certo. Ah, ecco. Ma proprio non c'è neanche da parlarne. Finalmente qualcuno se n'è andato dal PD. Oh. C'è la storia di al lupo. Uno sta sereno e dice: il lupo non verrà mai. Il lupo a un certo punto arriva. Capito, Vincino? Già Civati ha preso un voto, Veronica Gentili. Ma li aveva già presi a suo tempo. Che ne dica Renzi? C'è tutta una grossa parte di gente che alle primarie ancora ha alzato il sedere per andare a votare. E poi però passarono tutti con Renzi, per esempio Taddei era stato consigliato. Esatto. E passò con Renzi tutti lo lasciarono. Sono solo, tutti renziani, adesso sta lì a arrampicarsi sugli specchi cercando di trovare giustificazioni improbabili sulla cosa delle pensioni. Ogni volta parla e non sa bene quello che dice. Per esempio è vergognosa. Vabbè, adesso ci arriviamo. Per esempio Veronica Gentili, Vincino, che sparla di Renzi e fa tutte vignette su Renzi, poi chiude la trasmissione e mette le crocette, i voti a Renzi, è così, è renziano più lui, sì, certo. Certo, fa finta, ma ha scritto il libro La Cavalcata di Matteo Renzi, capisci? Sono tutti renziani ormai. Dice: è successo così progressivamente, ha preso tutti, come un batterio. Vincino, che sei svenuto? No, non sono svenuto, vabbè, insomma, come dire. È così, ti ho offeso? Non lo so. Assolutamente no, mi hai levato la parola sulla consulta. Ci arriviamo alla consulta, stai tranquillo, non ti ho mica censurato, andiamo con ordine, apriamo il Parlamento perché vi devo raccontare questa. Sapete cosa è successo? Adesso vado a prendere un caffè. Allora, ormai ci vediamo più tardi. Ci sono state delle sedute un po' agitate di recente. Vi ricordate quella, la seduta che è finita con gente che urlava serva, serva, serva alla presidente della Camera, che in quel caso era la presidente di seduta, Marina Sereni. Te lo ricordi, Vincino? Risse, Farina che diede un pugno a uno. Allora, sono arrivate le immagini, come i Black Bloc. Hanno visionato le immagini, hanno combinato a 66 deputati, un totale di 602 giornate di squalifica di fatto. Si distingue chi urlava serva, serva, Carlo Sibilia, Movimento 5 Stelle, 24 giorni di sospensione. Serva, eccolo qua. Serva, 24 giorni. Segue Gianluca Vacca, 20 giorni ha tentato di aggirare lo schieramento degli assistenti per raggiungere i banchi della presidenza. Poi Alessandro Di Battista e Carla Ruocco, 18 giorni perché turbavano la seduta scandendo la parola onestà. Onestà. È una parola terribile. È terribile, onestà. Onestà. E invece se l'è cavata il deputato PD Sanna, accusato di avere dato della zoccola a una del Movimento 5 Stelle, si è difeso così: ma che zoccola, ho usato l'espressione dialettale sarda zacca strada, che vuol dire levati dalla strada, capisci, Veronica Gentili? Questo succede alla Camera dei Deputati. Comunque zoccola si sa che ormai è un epiteto molto utilizzato, quindi quasi un complimento, capito? Cioè, vuol dire che riesci ad essere sul pezzo e sei congruente al mood del Parlamento, quindi va bene. Beh, quindi è tutto a posto, Vincino. Tu c'è un commendatore, esatto. Dice no. Nobile, no, dice le zoccole di questo mese, vai. No, vabbè, adesso comunque, capito, che zoccola, zacca strada, gli ho detto, no? Levati dalla strada, bruscamente. Devo dire che è probabile. Come giustamente scrive il Fatto Quotidiano, oggi va detto: onestà non si può dire, ma zoccola o zacca strada sì. E quindi, ma tu te la ricordi, Vincino, quella seduta? Vagamente, era la notte, un mese fa, non lo so. Sì, sì. Sì, no, ma non c'era la... No, io mi ricordo l'ultima, là, la lite tra la Russa e la Boldrini. E la Boldrini, vabbè. Ah, questo, la Russa che scendeva... La Russa ha le gambette piccole piccole, no? E sì. Quindi quando scende, lo vedi, è alto con due gambettine, faceva ridere in quella discesa là, che non gli aveva dato un minuto in più, niente. Sì, sì. E lui che era, come dire, arrabbiato. Lui che era ministro, dice, ma come? Che era ministro della difesa, gli avrebbero dato i carri armati, insomma, niente da fare. Contro la pacifista Boldrini, sì. Vabbè. Comunque, sì. Quando visioneranno le prossime immagini, credo che qualcuno, l'ultima seduta durante il Giro Italia, come ha detto Cornuta, e si sentiva è vero. Cornuta o collusa, c'è questo dubbio. Cornuta, secondo me ha detto Cornuta. Secondo me pure ha detto Cornuta. Era abbastanza una cosa da automobilistica, sembrava. Il però Vincino che era lì lo sa, cosa gli hanno detto la Boldrini? Cornuta, vabbè, ma ragazzi, questo succede alla Camera, 602 giorni di sospensioni, 56 su 66 sono del Movimento 5 Stelle o 59. Tutti... Però è come gli scontri per strada, hai ragione, siccome tanto il Parlamento non conta più niente, o ti fai notare così un po' di botte, un po' di risso, adesso porteranno, capito, ogni tanto anche delle molotov reinventate in versione parlamentare, oppure ormai non così. Ti fai notare. Infatti Vincino, che è il più grande amico esistente sulla terra del Movimento 5 Stelle, che ne pensi di queste espulsioni? Ma come dire... Poi dove li mettono? No, li chiudono da qualche parte, no? Perché questi non votano per quanto? Per 20 giorni, no? Sì, e più o meno. Fa passare cose velocemente, tanto. Questo qua è una tattica, bisognerebbe usare. Sì. Vabbè, ti sei Movimento 5 Stellizzato, anche tu. No, assolutamente no, guarda, no, questo è grave, non ti permetto, qua per ora stanno facendo la marcia virtuale, come si fa un'imbecillità come le marce virtuali? C'è una cosa, guarda, le marce, o le fai o non le fai, io... Come dire, sono gandiano della prima ora, quello fa 3 mesi per arrivare dal coso al mare a fare il sale, no? E 3 mesi e camminava, no? E il mondo lo sapeva. E invece qua la marcia virtuale 2.0. E poi cosa fanno ancora peggio? Fanno la Sisi Peruccia, che è un'altra cosa, un'altra marcia per i fatti suoi, no? Dico, ma fai la marcia perché c'è mancanza di lavoro e di soldi tra Sisi e Peruccia? Sono tutti ricchi là, più o meno in quella zona. <là. ride> Quindi cosa c'è da manifestare tra Sisi e Peruccia? Perché c'è da fare? No, palla da che ne so, da sotto Napoli, dalla Calabria sino a Roma, 5 giorni di marcia. No, è tornato il Vincino che conoscevamo. Cosa sono? Le cose giuste le fanno male, non le sanno fare. Ecco. Che ci possiamo fare? Va bene. Come ci vati? Il Movimento 5 Stelle, come ci vati? Allora, qui Veronica Gentili, c'era il buon Vincino che voleva parlare di questa cosa delle pensioni. Un oggetto sconosciuto a me e a te, cara Veronica, noi che non lo vedremo mai, la pensione. Per noi infatti è un problema che non si pone proprio. Quindi io provocatoriamente a una pensionata che mi ha chiamato molto arrabbiata a dire «Oh, mi ha rubato i soldi, me li devono ridare!» Tu dici «I conti pubblici!» Io dico «Va bene, diamo i soldi ai pensionati, ridiamo indietro i soldi a tutti!» E così, tanto noi non la vedremo mai. Tu la vedrai mai la pensione, Veronica? Va bene così? No, io non credo, ma io quello che non riesco a capire sostanzialmente è che tutte le volte... cioè, questo ritornello del facciamo le riforme sulle pensioni, sul lavoro, sulla legge elettorale perché ce lo chiede l'Europa. Tanto poi le riforme vengono dopo abrogate dalla Consulta perché sono incostituzionali, cosa che è successa col Porcellum, adesso con l'indicizzazione delle pensioni, che speriamo risucceda con l'Italicum. E noi paghiamo. Ed è un gioco dell'oca. La Consulta fa pro domo sua. Loro difendono le loro pensioni a 30.000 euro al mese. Vabbè, sono 15 persone. E difendono gli interessi dei loro 15 e dei loro 100 colleghi che sono andati in pensione e sono là vicini. Perché loro hanno pensioni altissime e quindi saranno arrivati un sacco di soldi a loro. È proprio un classico conflitto di interessi. Ed è sul foglio in prima pagina, c'è una vignetta che lo racconta bene oggi. Chissà chi l'ha fatta questa vignetta. Eccola qua. Dov'è la vignetta in prima pagina? Porca miseria, tutti tutti i futuri pensionati a 50.000 euro al mese della Consulta, col cazzo che rinunciamo a un solo euro di futura pensione. Sì. E sono ovviamente due giudici della Consulta che parlano. Ma secondo te c'è... uno c'ha il tubo da stufa proprio là si invece nel cappello sì, c'ha il camino praticamente, il cappello che ha un tetto con il camino. Ma se, facciamo un po' di retroscena, perché è uscita questa cosa sui giornali un po'. Renzi fino a questo momento è silenzioso su questa vicenda, ma come sempre quando le cose sono scottanti a parlare gli altri, appunto, ecco. Però pare che sia, come dire, un po' arrabbiato, perché tra i 15 giudici della Corte Costituzionale c'è Giuliano Amato, uno che è stato che mirava il Colle, e si parla di una grande vendetta, no? Si guarda un'enorme pensione Giuliano Amato. Vabbè, là, adesso ancora pensioni, ecco le pensioni di Amato. Vabbè, salutiamo ovviamente Giuliano Amato. Veronica, le sue pensioni. Che ne pensate, Veronica? Secondo te è uno scenario ipotizzabile, Amato? Che no, diciamo che comunque la cosa ha dei tratti di verosimiglianza, la scelta fatta dalla Consulta, perché per quanto prendano le pensioni, come dice Vincino, tutta questa storia ha avuto un po' un che di surreale. Quindi è vero sì che i sacrifici uno li chiede da tutte le parti, ma è anche vero che se tu decidi di non indicizzare delle pensioni quando il resto del mondo va avanti e tutto il resto cambia, è un po' grottesco. Quindi in questo caso ci vedo un po' di dietrologia, ma Renzi, chiunque fa qualche cosa che non è affine, non è in linea, lo vede come un nemico personale, che appunto, come diceva la registrazione Civati, che vuole uscire dall'asfalto, no? Eccoli. Quindi questa cosa non ci piace. Ma tu perché non sei contento che Civati è uscito dal PD? Dovresti essere contentone. Ma guarda che sei, non sposta la mia vita, ecco, devo dire. Capito, non... Ma fate questa ironia, chi se ne frega. Ma no, ma non è questo, ma non è questione di ironia, è che sono due anni che dice forse esco dal PD. È uscito. Vabbè. Non ha dato un voto mai a quando cioè alla ma no, casa, ma lunga vita a Civati. Lunga vita a Civati. Io dico che però, come ben sai, la politica si misura poi coi voti. Se Civati farà, che ne so, un partitino, un movimento, un qualcosa da 0,3%, non ha politicamente dimostrato. Io non la vedo così. Cioè, in che senso? Che secondo me che non farà lo 0,3. No, 0 proprio, non lo credo neanche, no, proprio no. 0,2, vai Vincino, dove Vincino è cattivo, guarda. Che... Ma no, ma non ha, come dire, si è perso tutti i suoi, hai capito? Tutti, come dire, un uomo leader politico ha una capacità, lui aveva il 15% e doveva muoversi, coltivarlo, fare politica sul territorio, su tutte le parti, sì. Crescere, invece no, puff. Quando vedi quello scemo gli altri day, stanno ancora lì. Allora, su questo hai ragione, Veronica. Quelli che blaterano, cianciano, dicono io sto male qui, come quello che sta male a casa con la moglie e poi sta con la moglie, sto male qui, borbottano tutti i giorni e poi stanno lì. Almeno lui dopo due anni. Allora, una sola cosa di politica pensata da Civati, qual è il programma di Civati? Me ne dici una. Vabbè, io non me ne ricordo pensiamo, una. Ci pensa durante il traffico, Roma. Veronica Gentili, dopo il traffico te lo dice. Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco alla banca sono un coglione. 24 mattino. Ciao Milan, io vorrei qualche bella canzone di Bennato magari la mattina come sigla nuova, che ne dici? Ale, ma tu che sei un milanista al centro del potere, non sai qualcosa di più di tutta questa situazione che a noi vecchi cuori rossoneri ci sta veramente stressando, ci sta consumando? Dici qualcosa, Ale, ti prego Milan, dici qualcosa. Una fotografia sfocata porta la dichiarazione: ecco i figli di papà con il Rolex d'oro. E allora questo cosa vuol dire? Che era il figlio di Lupi forse? Milan, io non smetterei di contare le settimane decisive per la legge elettorale, perché abbiamo ancora il consultello, abbiamo ancora il Senato. Ah, tra parentesi, ho anch'io aderito alla petizione Alino, sveglia alle 6. Questa è la triste storia di Alessandro Milan. Ma cosa volete che dica un uomo nato a Sesto San Giovanni, che d'estate giocava in riva all'Ambro, il fiume più inquinato d'Europa, ed è cresciuto a Pane e Ghisa, e poi con quel cognome poteva solo crescere e diventare così come è oggi, un povero giornalista milanista pettinato come Mick Jagger. Please allow me to introduce myself. myself. I'm a man of the world. Beh, vabbè, insomma, adesso Veronica non è che mi ha fatto proprio solo pochi, cioè, non è che mi ha dato solo degli insulti, anche. Beh, io l'ho trovato figo l'ultimo messaggio. Secondo me è un ritratto che potresti valutare. A pane e ghisa a giocare in riva all'Ambro inquinato. Un po' ragazzo della via Gluck, un'immagine un po' così, insomma, cresciuto nella ex Stalingrado d'Italia. E allora, sì, Sesto San Giovanni, Sesto San Giovanni. E allora adesso c'è? Hai la Sardone di Forza Italia. Mamma mia, pensa che ho fatto un anno su 7 Gold, su 7 Gold di TV, sì. E l'ho invitata per primo, cioè l'ho invitata, era combattivissima. Infatti mi ha scritto: ti ricordi che ti ho invitato? Ma certo che mi ricordo che ti ho invitato. Quindi ho avuto il merito di averla lanciata in TV. Ma leggevo che lei utilizza questo sistema quando vuole essere rinvitata. Scrive alle redazioni o nei posti: vorrei partecipare perché avrei delle cose da dire. Quindi probabilmente era No, ci ha contattato. Vabbè, ma è giusto, è legittimo, si promuove come tutti i politici che devi fare. No, vabbè, ma non è che aveva semplicemente detto: ah, ti ricordi, mi avevi invitato. E vabbè. Beh, questo è il suo momento, no? Appunto, Silvia Sardone di Forza Italia. Quando vuole, qui è ospite, è ovviamente casa sua, di Sesto San Giovanni. Allora, caro Vincino, tu Sesto San Giovanni la conosci? Sei mai stato a Sesto San Giovanni? No. Credo no. Dai, la Falck, la Breda. Ma voglio dire, quel sindaco poi è diventato capo di provincia, poi dopo assolto, condannato. Mamma, ma no, è sotto processo. Sotto processo. Adesso c'è, cioè, Sesto San Giovanni, dici il sindaco sotto processo, ma dai, no, su. Penati, dai, vai. Ho capito, ma cosa vuol dire? Allora tu sei di Palermo, cosa dovrei dire io? Sei il primo uomo politico che ho visto ho disegnato in consiglio comunale da Ciancimino. E me ne vanto perché sono partito di là. La vita è dura, l'ho capita subito. No? Vabbè. Comunque, Veronica Gentili, oggi non ti ho fatto l'esame, ma tu sai. No, ecco, evitiamo, perché ancora sto raccontando in giro a tutti la figura che mi hai fatto fare, ti prego. No, ma dai, figura, però tu non so, sai, ma no, di calcio, lei non è che sa molto di calcio. Io non so nulla. Se tu le chiedi dove gioca l'Atalanta, non lo sa, non sa che è di Bergamo, ecco, la Sampdoria di Genova, queste cose. Mi ha fatto fare una figura la settimana scorsa veramente pessima, non sapevo neanche la Sampdoria. Sa che la Lazio gioca a Roma, ma solo per una vaga assonanza o perché sì, questioni di famiglia, una biografia di storie della Lazio, quindi sì. Proprio perché poi la regione si chiama così. C'è arrivata. Però Messi lo conosci? Messi. Sì, Messi lo conosco perché c'ho papà che ha una fissazione per Messi. Vedi. Quindi che anche lì soltanto per questioni familiari. Che sai che gioca nel Giocava nella Lazio, nel Barcellona. Giocava nella Lazio Messi, ma magari. Ma non ha mai giocato? Ma Messi nella Lazio, ma che sei matta? Ma che sei matta, Messi nella Lazio? Ma no, gioca nel Barcellona. Cioè, secondo te, fammi capire. Avanti, peggio, Per te Messi ha lasciato la Lazio in gioventù. Ti spiego il sillogismo: papà è della Lazio, papà ama Messi. È chiaro. La logica è chiarissima. Messi, cari laziali, vi siete lasciati sfuggire Messi, voi non lo sapete. Ma Veronica Gentili va detto di sì. In realtà nei nostri cuori ha giocato con la Lazio. Nei nostri cuori. Ma hai capito nel frattempo cosa ha fatto di utile Civati politicamente? Che Vincino qua lo attende come cosa? Ma io penso che quando presentavo nel programma per le primarie sembrava che tutti quanti volessero rinnovare il PD e farne un partito dinamico, vivo, moderno, tutta la retorica della rottamazione è a sinistra. Sì. Dopodiché in corso d'opera Civati sono 2 anni che è vero che dice solo no, alza le spalle, Civati, però che tutte quelle cose che sono state le cose che abbiamo contestato a Renzi, anche quello che è appunto un elettorato di sinistra, lui si è sempre schierato contro e ha sempre espresso il pensiero contrario. Oh, Vincino, quindi... contento? No, io la domanda era un'altra, una sola proposta politica. Ah, vabbè, adesso, dai, le farà adesso. È una domanda facile. Le farà adesso. Uno sa cosa vogliono i radicali, no, uno sa cosa vuole Renzi, uno sa cosa vuole Civati, questo vabbè. Non l'ho capito. Vabbè, sentite... Civati fino adesso era nel PD, quindi non è che dovesse avere un programma. No, come... dovesse avere un'idea, una cosa, certamente. Però vi voglio lasciare. Con l'editoriale di Salvini, 2 editoriali molto stringati. Salvini e sul Parlamento,

se fossi tua moglie quante botte ti darei. Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, cari ascoltatori, alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Come sapete, da tempo seguiamo l'iter di quella che secondo me è una battaglia di civiltà, è una battaglia di principio, cioè la battaglia per fare in modo che gli ex deputati e senatori che abbiano subito una condanna per reati contro la pubblica amministrazione, per reati gravi, non percepiscano più il vitalizio. È come uno compie un reato che danneggia lo Stato, che avrebbe dovuto servire come membro delle istituzioni, e poi riceve un premio, una ricompensa sotto forma di vitalizio da quello stesso Stato. E sapete che è nato un dibattito, una discussione, è una discussione in vigore all'interno della Camera e del Senato. Come me la pensano evidentemente centinaia di migliaia di persone. Almeno sono 500.000 le firme di una petizione che è stata promossa anche dall'Associazione Libera, dal portale change.org e che sono state ieri consegnate fisicamente ai presidenti di Camera e Senato. Dietro a tutto questo c'è per esempio l'Associazione Libera. Don Luigi Ciotti ha fatto anche un video appello molto molto serrato su questo tema. Dobbiamo cancellare una vergogna, una grave vergogna, dire insieme via al vitalizi per gli ex parlamentari condannati, se ben chiaro, via definitiva. Sono 500.000 i cittadini che hanno assunto la loro parte di responsabilità, che chiedono a voi parlamentari di assumervi la vostra parte di responsabilità. Fate in fretta perché abbiamo già perso troppo tempo. Fate in fretta, abbiamo già perso troppo tempo. Oggi e domani sono i giorni in cui si discute. Voglio salutare per questo Lucio Malan, senatore di Forza Italia, uno dei questori del Senato, cioè dell'ufficio di presidenza che deciderà. Buongiorno, senatore Malan. Buongiorno. Le voglio presentare anche Franco Latorre, che è membro della presidenza di Libera. Buongiorno, Latorre. Benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Le devo una informazione, sì. Un aggiornamento. Abbiamo superato le 510.000 firme. Ecco, oltre 510.000. Ricordiamo anche che si può firmare virtualmente su qualche portale. Ci dice come? Sì. Change.org. Change.org è il portale, c'è questa petizione come tante altre, sì, petizioni. Esatto. Perché, come ha detto Don Ciotti, Franco Latorre, bisogna fare presto e bisogna cancellare quella che definite e che molte persone sottoscrivono una vergogna? Per restituire la fiducia. Per restituire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e in particolare nella classe politica che ha più alto livello ci rappresenta, cioè quella che siede in Parlamento. Questa è una straordinaria occasione per tutti i parlamentari. Lei sa che dire al paese, noi siamo con voi. Lei sa che noi ne abbiamo parlato varie volte, sono stati chiesti anche pareri a eminenti giuristi, ex presidente della Corte Costituzionale, si è discusso per tanto tempo, ora forse siamo alla stretta finale. Voi chiedete e temete che ci possa essere, tra poco lo vedremo col senatore Malan, qualche decisione a metà? Ma quello che ci hanno detto ieri i presidenti del Senato e della Camera, Grasso e Boldrini, è che oggi è convocata in seduta congiunta la riunione degli uffici di presidenza che decideranno. Noi siamo ottimisti e fiduciosi anche perché siamo in ottima compagnia, come ha detto lei, oltre 500.000 di firme. Io credo che non ci saranno problemi, io penso, non perché ci ho fiducia nelle istituzioni, ho fiducia in chi ci rappresenta, che comprenda che questa è un'occasione straordinaria per lanciare un messaggio positivo alla cittadinanza, alle cittadine e ai cittadini elettori. Vediamo, allora, senatore Malan, lei farà parte di questo ufficio di presidenza, fa parte, ci sarà questa seduta. Intanto ci dica se l'ottimismo di Franco Latorre e di tutti coloro che hanno portato le firme sarà confermato. La sua posizione personale qual è? Allora, intanto vedo che la presentazione è stata fatta in modo molto neutrale, no? Sono state presentate tutte le ragioni, cioè quelle di una parte sola, e soprattutto a quanto pare ci sono persone molto informate, perché la prassi in tutti i consigli di presidenza, visto che si decide sempre di cose di un certo rilievo e comunque sono cose concrete, non si decide di idee astratte dove si dice sì e no come fosse un concorso di bellezza, la prassi è che si abbia la documentazione, sì, di solito una settimana prima. Adesso mancano meno di 6 ore al Consiglio di Presidenza e io non ho visto ancora alcun documento. Però è un anno che se ne si discute. È molto difficile, è molto difficile prendere una decisione. Dire che cosa si fa, che cosa si vota, perché non c'è ancora alcuna documentazione. Evidentemente ci sono stati dei colloqui privati, abbiamo appena sentito poco fa, in cui le cose che dovrebbero conoscere i membri dell'organo che deve decidere sono state dette. Per esempio c'è stata una riunione dei presidenti delle Camere con i gruppi del Partito Democratico, alla fine della quale è stato annunciato trionfalmente che la cosa si farà. È vero, è stato fatto settimana scorsa. Evidentemente hanno anche concordato di come farlo, hanno concordato un testo che evidentemente è ritenuto proprietà privata del Partito Democratico e dei presidenti di Camera e Senato, perché ancora noi... Insomma, lei sta criticando il fatto di essere stato tenuto all'oscuro di tutto quello che sta succedendo all'interno... Ci sono diversi aspetti discutibili nel metodo, per l'appunto che si parla prima con associazioni private esterne, si fanno riunioni di un gruppo parlamentare senza coinvolgere quelli che devono decidere, e poi si annuncia che la decisione è presa. Però mi perdoni, senatore Malan, se fa tutto il PD, già il PD decide. Dice facciano tutto loro. Decide le leggi, si discutono le leggi come nel Partito Comunista dell'Unione Sovietica, sono le leggi in sede di partito. Mi scusi, senatore, però se ne discute, se ne sta discutendo da un anno. Avete chiesto, credo, 8 pareri a eminenti costituzionalisti, quindi non è che può lei dire e sono all'oscuro, cioè la vicenda, il dossier c'è. L'argomento, io conosco l'argomento. La sua opinione personale qual è? Cioè lei, secondo lei, vanno tolti i vitalizi? Allora, io conosco l'argomento ma non conosco il testo. Sarebbe come dire facciamo una legge per incoraggiare per facilitare la proprietà della prima casa, non mi dicono cosa c'è scritto dentro, sei a favore o sei contro. Però mi dica il principio, allora, cioè il principio. Secondo lei, facciamo un esempio concreto. Allora io dico questo, visto che è stata fatta una campagna a pagamento sui giornali, eccetera. E visto che su questo dovrebbe agire l'articolo 54 della Costituzione, cioè si dice che viene fatto, una delle cose che ci è stata presentata dal Presidente Grasso è che è fatta sulla base dell'articolo 54 della Costituzione, che dice che tutti coloro che rivestono incarichi pubblici devono farlo con disciplina e onore, scrivo pienamente, se anche non sottoscrivessi, è la Costituzione. Ora, non ci sono solo gli eletti che hanno incarichi pubblici, ci sono... Per esempio, ci sono anche persone di tantissime, per dire un insegnante pubblico fa la stessa cosa, ma parlando di redditi alti, anche molto più alti di quelli di un parlamentare, ci sono i magistrati, i dirigenti dello Stato, che da una delibera dell'ufficio di presidenza evidentemente restano non toccati. Ecco perché noi in linea di massima, poi dobbiamo vedere il testo che ci viene presentato, siamo favorevoli a una legge che coinvolga tutti coloro che sono interessati dall'articolo 54. Quindi mi faccia capire se ho capito così, cioè se togliamo il vitalizio a un parlamentare che ha una condanna definitiva, va tolto anche la pensione, ma qualcuno dice che il vitalizio non è paragonabile alla pensione, va tolto anche a un dipendente dello Stato che ha la stessa situazione. Il vitalizio è una pensione, nel 54 fu istituito col nome di pensione. Sul mio statino e i soldi che vengono obbligatoriamente accantonati versati, per quello, c'è scritto che è un versamento per la pensione, ha tutte le caratteristiche della pensione, specialmente da quando nel 2011, in parallelo con quello che è stato fatto per tutti gli altri lavoratori, si è passati al sistema contributivo. Insomma, per cui esattamente come... Ma mi sembra di capire, però, senatore, pensione, che così facciamo un dibattito. Mi sembra di capire che quello che Franco Latorre ci poneva come un ottimismo riguardo a quello, se non altro Franco Latorre, c'è dello scetticismo di Malan, che dice non conosco il testo, non hanno incontrato associazioni private, in questo caso Libera, voi, eccetera, fa tutto il PD, io a 6 ore dall'ufficio di presidenza non so e non conosco il testo, capito? La Torre, non è che c'è quell'ottimismo in senatore Malan come l'abbiamo colto in lei. Ognuno è fatto come è fatto, io che le devo dire? Io sono animato, diciamo, caratterialmente dall'ottimismo della volontà. Sono fatto fatto forse male. Mi permetta una precisazione, sì. La campagna, se il senatore si riferiva a quella di Libera, non ha acquistato spazi sui giornali, è costata zero perché ognuno ha provveduto, diciamo, pro bono. La piattaforma digitale più importante al mondo, change.org, si è messa a disposizione, come spesso fa per campagne di questo genere. Quindi, almeno, se si riferiva a Libera, la informo che noi non abbiamo speso un centesimo. Credo che sia doveroso informarsi prima di fare certe affermazioni. Le faccio questa domanda. Sì. Numero due, sì. Io capisco tutti i tecnicismi, rispetto sicuramente, e non so se sia necessaria una legge che riguarda tutte le alte rappresentanze, dirigenze, magistrati, eccetera. Io rivolgevo un appello ai parlamentari che ricoprono l'incarico più importante, non per fare una classifica tra i poteri dello Stato, ma sicuramente chi ho votato e mi rappresenta in Parlamento, che rappresenta la volontà popolare, dovrebbe sentire innanzitutto l'appello rivolto a se stesso e dare il buon esempio. Nel frattempo che si predispone una legge che io mi auguro, e penso si auguri anche Malan, venga approvata subito, domani, oggi fate parte di un ufficio di presidenza che ha questo potere, applicatela voi stessi. Io sono stato educato in una famiglia in cui innanzitutto i genitori danno il buon esempio ai figli, più che predicare. Lo voglio e lo posso dire io non l'ho detto in apertura, ma Franco Latorre, che fa parte della presidenza di Libera, è il figlio di Pio Latorre, sindacalista, politico, ucciso dalla mafia, è padre di quelle leggi per la confisca dei beni ai mafiosi, per le leggi per l'associazione alla mafia, insomma, che ha pagato con la vita per la questo. Ringrazio. Le chiedo questo, Franco Latorre, ci sono anche persone, io l'ho fatto il nome di Dell'Utri, ma non è che non voglio fare delle questioni ad personam mirate, ma è per capire. Dell'Utri, che sta scontando una pena definitiva per l'associazione esterna alla mafia, riceve per esempio il vitalizio. Secondo lei Latorre, questo ovviamente è un qualcosa che non va bene, immagino. No, condivido pienamente la sua opinione e il suo approccio, ma a me non interessa chi. A me interessa un principio: chi è stato condannato in via definitiva per reati molto gravi, parliamo di corruzione, di associazione mafiosa, si può considerare degno? Sta assolvendo a quell'articolo della Costituzione, essendo stato eletto a rappresentare la volontà popolare nell'istituzione più alta di questo paese, il Parlamento? Però il senatore Malan ci ha posto una problematica chiara, cioè se il vitalizio è una pensione vorrebbe dire che bisogna fare una legge che anche un magistrato condannato in via definitiva per gravi reati, allora gli togliamo la pensione, anche un insegnante, un funzionario. I poteri del Parlamento, ci mancherebbe altro, se ritengono opportuno i parlamentari fare questo lo facciano, mi auguro che lo facciano al più presto, ma allo stesso tempo si sentano responsabilmente investiti del, come dire, dell'onorare un obbligo, e lo facciano loro, diano il buon esempio. Si parla tanto di antipolitica, del distacco tra cittadini elettori nei confronti delle istituzioni, ma perché non colgono al volo questa occasione? Perché non colgono e lanciano un messaggio: li abbiamo ascoltato e noi per primi. E noi per primi diamo il buon esempio e da domani ci mettiamo al lavoro per una legge. Allora, mancano sei ore. Cosa cambia? No, cambia. Vediamo. Senatore Malan, detto che io nella mia premessa, ma l'ho detto, secondo me l'onestà a volte sta a dire da che parte si sta. E io l'ho detto, appoggio questa campagna, sono a favore di questa campagna, ma ascoltiamo anche le sue ragioni, senatore Malan. Però mancano sei ore. Mi dica, veramente, non posso credere che lei a questo punto della mattina non sappia che cosa voterà oggi all'ufficio. Forse non ce lo vuole dire, No. Credo di essere stato chiaro, però lo ripeto, io non ho il testo che devo votare. Cioè, sarebbe come se le chiedessero. Però sul principio si sarà formata un'idea, sul principio se è giusto che Dell'Utri riceva o no il vitalizio, avrà una sua idea sul personale. Guardi, il problema è, deve essere un principio di rispetto dell'articolo 54 della Costituzione. Se c'entra l'articolo 54 della Costituzione, che è la copertura che ci può essere a questo provvedimento, l'articolo 54 della Costituzione, e mi meraviglia che appunto persone che non abbiano notato questo, che sono tutti pronti, ed è certo che io capisco una persona che ha violato la legge, per di più che ha un altissimo incarico, che ha avuto altissimi incarichi nello Stato e ancora riceve dei soldi, sì, sia pure sotto forma di pensione. È una cosa che urta, indubbiamente. Però va tutto fatto nel rispetto della legge. Come? Va tutto fatto, lei dice, nel rispetto della legge. Perché però in Sicilia, ce l'ha spiegato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, hanno tolto il vitalizio a Cuffaro e vi ha mandato il provvedimento dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, che in due giorni ha deciso si può togliere il provvedimento, il vitalizio a Cuffaro? Sì, e per questo noi abbiamo dei pareri di ex presidenti della Corte Costituzionale che dicono esattamente l'opposto. È vero. E che dicono che anche il provvedimento nei confronti di Cuffaro è illegittimo. Però quello che io dico in questo momento è che il provvedimento preso dall'Ufficio di Presidenza di Camera e Senato rischia di essere inefficace, e rovesciato da un ricorso. La cosa sicura è che non può riguardare le altre alte cariche, alti incarichi pubblici, sì, intanto organismi paragonabili come il CSM o la Corte Costituzionale, e non gli alti incarichi dello Stato. Allora, ci sono tra i grandi protagonisti di questa campagna per fare passare questa misura, ci sono persone che prendono una pensione per aver ricoperto incarichi pubblici che è il doppio di quello che è del massimo che può essere un vitalizio, sì, sì, per un parlamentare, e che neanche se vengono e fanno una strage col mitra gli verrà tolto un centesimo di pensione, neanche se si scoprisse che hanno passato la loro vita di funzionari dello Stato a comprare, vendere pareri. Ma lei dice vede un po' di accanimento invece negli ex parlamentari esattamente. Il che, siccome bisogna anche tener conto del fatto che poi tutti parlano dei gravissimi reati, però poi nelle bozze che c'erano state presentate mesi fa, che certamente sono cambiate, oggi vedo che il Fatto Quotidiano titola dicendo che sono cambiati, sono state delle modifiche, che il testo attuale è una ciofeca, che non funziona e così via, ma ripeto, ce l'ha il Fatto Quotidiano, non ce l'ho io che tra 5 ore e mezza deve votare. E vabbè, noi io ho l'impressione che, ben distante dalle intenzioni magari di chi ha lanciato la campagna, che però si è dimenticato che anche i magistrati, anche i funzionari dello Stato, di gente che aveva i lingotti d'oro frutto delle mazzette, questi continuano a prendere fino all'ultimo centesimo, ma si sono ricordati soprattutto dei parlamentari. Senatore Malan, si fermi qui perché tanto io devo dare pubblicità, devo chiudere l'argomento, ma lo chiudo per oggi. Vi prometto che torneremo. Intanto la ringrazio, senatore, nel giro di queste 5 ore sicuramente si formulerà un'idea, perché un qualcosa dovrà votare oggi in Ufficio di Presidenza. Senatore Lucio Malan, voglio ricordare di Forza Italia, questore, uno dei 3 questori del Senato. E Franco Latorre è stato con noi, anche membro della presidenza di Libera, che ha contribuito a raccogliere queste 510.000 firme. Franco Latorre, voglio ricordare, ancora il figlio di Pio Latorre. Sono stati con noi. Come andrà a finire? E domani lo scopriremo, nei prossimi giorni. Intanto avremo tra poco l'assessore al bilancio della Regione Sicilia. Torna con noi Alessandro Baccei, perché è colui che sta cercando, forse tra molte resistenze, di tagliare un po' i costi di quella regione a statuto speciale. Allora, le 8:41 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare, l'abbiamo già avuto ospite, l'assessore regionale alla Regione Sicilia al bilancio, che è già stato con noi. Si tratta di Alessandro Baccei, che saluto. Ben ritrovato, assessore Baccei, eccoci qua. Buongiorno. Allora, perché l'ultima volta che ci avevamo lasciati avevamo raccontato, come dire, il suo tentativo di razionalizzare la spesa della Regione Siciliana, mettiamo così? Mettiamola così. Anche perché c'è un provvedimento, qualcuno ha raccontato 8 righe, che se approvato, e cioè se si normalizzasse, si parametrassero il livello di assessori, consiglieri comunali della Regione Sicilia al livello dei consiglieri comunali di tutto il resto dell'Italia, si potrebbe risparmiare tanti bei soldini. Questo provvedimento, che lei fortemente vuole, perché non passa? Ma allora, diciamo che è scisso in due parti. La parte finanziaria in qualche modo è passata, nel senso che è oggetto della finanziaria che è stata approvata il primo maggio dall'Assemblea, quindi per il 2015 i costi relativi ai trasferimenti ai comuni sono stati adeguati per una parte equivalente ai risparmi della politica parametrati su 6 mesi, e l'anno prossimo sarà fatto su 12 mesi, quindi dal punto di vista economico-finanziario in qualche modo l'adeguamento c'è stato. Ora martedì comincia la discussione in aula su quello che è invece la parte di adeguamento di numero di consiglieri, dei compensi e su questo non è quello che non passa, perché si racconta a tutti i giornali che è una semplice norma che farebbe approvare 48 milioni di euro l'anno, farebbero... Beh, la spesa è già adeguata comunque, la spesa è già adeguata, per quest'anno i trasferimenti sono stati ridotti circa 19 milioni di euro, perché comunque il numero dei consiglieri verrebbe riadeguato con la tornata elettorale, per cui i compensi, diciamo, i trasferimenti sono stati adeguati calcolando i compensi su base nazionale sostanzialmente. Ma il fatto quando leggo che in questa norma sparirebbero 1600 poltrone di assessori e consiglieri comunali, lei mi sta dicendo che anche se non spariscono, comunque i trasferimenti dalla regione ai consigli comunali sono riparametrati già? Esattamente. E che rimangono senza stipendio se non si tolgono la poltrona? No, sarà una scelta dei comuni se adeguare i costi della politica con la normativa attuale. Dico, se non dovesse passare la legge che andrà in discussione martedì in aula, sarà una scelta dei comuni se adeguare i costi della politica o trovare altre fonti di risparmio. Ah, ecco, quindi o vi trovate i soldi, modi per risparmiare, fate una spending review nei vari comuni siciliani, oppure i soldi sono sempre sono ridotti, sono quelli. Esattamente. È vero che esiste una legge regionale che consente ai consiglieri comunali di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, per cui secondo Corriere.it leggevo questo scandalo, vanno lì, fanno una firma, non partecipano al consiglio comunale in molti comuni, ma prendono i soldi lo stesso. E infatti nella legge era previsto di calcolare i permessi in base alle ore e non sull'intera giornata. Cioè c'è parte della legge che va in discussione. Ma come è possibile che esista questa possibilità per un consigliere comunale arrivare a fare la firma e andarsene? Mi sta chiedendo cose che sono rientrano nei miei ambiti di competenza, sono l'economia della regione, quindi conosco della vita dei comuni quel poco che incide sui costi della regione, insomma, non conosco la normativa nel dettaglio. Quando lei sente Baccei, lo ricordiamo, Baccei è stato brutalmente, i giornali la pongono così, è stato chiamato da Renzi per andare a cercare di sistemare i conti della Sicilia. Non so se lei questa versione come la prende, se la respinge, se la sottoscrive o se è troppo semplicistica. No, io sono stato nominato dal presidente Crocetta come assessore alla regione siciliana. Se il presidente Crocetta ha avuto interazioni col governo nazionale, questo lei non lo sa, però è una battaglia davvero improba quella di limitare i costi di una regione come quella siciliana, secondo lei? Ma è improba, no, perché con questa finanziaria comunque abbiamo portato avanti diverse riforme importanti, come la riforma sulle pensioni, il pubblico impiego e molte altre. Per cui, insomma, molte cose sono state fatte portando già risparmi significativi sul bilancio 2015. Altre cose se le stiamo portando avanti in una forma che potrebbe essere non leggi ma decreti presidenziali, come il riordino delle partecipate su cui stiamo lavorando e così via. Per cui diciamo che è difficile, però siamo sulla buona strada, devo dire con grande senso di responsabilità di tutti i deputati dell'Assemblea. Per concludere, assessore, le chiedo, questa è una polemica che ho letto oggi sui giornali, un assessore, non lei, della regione ha detto che c'è la possibilità che la Sicilia si ritiri dall'Expo perché, dice il presidente Crocetta, non siamo abbastanza visibili, credo, difficilmente raggiungibili. Io non ho ancora visitato l'Expo, quindi non lo so. Esiste davvero questa polemica e c'è questa possibilità che la Sicilia si ritiri dall'Expo? Ma guardi, anch'io ho letto sui giornali e ho sentito solo brevemente il presidente Crocetta, per cui non sono informato dei fatti, di nuovo non rientra nelle mie competenze, perché la stanno gestendo l'assessore all'agricoltura, l'assessore all'attività produttiva insieme al presidente. Ma sarebbe un danno d'immagine mica male, insomma, che indubbiamente non sarebbe una bella cosa, però insomma non so niente al riguardo, lei. Va bene, martedì vedremo, insomma, questo iter che inizierà. Intanto, assessore Baccei, noi la ringraziamo. Torneremo a capire se questi risparmi si potranno fare. Intanto lei ci ha già detto che la riparametrazione è già stata fatta, quindi i trasferimenti di soldi dalla regione ai consigli e ai consigli comunali, ai comuni, è già stata riparametrata. E per cui o tolgono le poltrone e si adeguano, oppure troveranno un modo per pagarsi gli assessori in più. Ecco, la dico così brutalmente. Staremo a vedere intanto al momento del traffico. Allora, vorrei dare la parola a due ascoltatori. Andrea da Siracusa ci chiama, credo, sul tema del vitalizio. Andrea? Buongiorno Andrea, ci senti? Sì, pronto, vi sento. Sì. Ecco, dica Andrea. Innanzitutto buongiorno. Sì. Buongiorno. Io mi spiace che non c'è più il pianista, perché prima è pianista, poi senatore Malan. Ah, poi magari gli antichi dicevano il nome nomen, Malan, mi sa tanto di malando. Va bene, adesso non esageriamo, non esageriamo. Volevo dire al senatore questo, intanto il vitalizio non è una pensione, perché prescinde dai contributi versati, quindi non c'entra nulla con la pensione, è una sorta di premio. È una sorta di premio che certamente non può essere dato. Diciamo, viene dato a fronte di soldi accantonati, quindi tecnicamente per alcuni è una pensione, altri no, ma sa, si giustifica tutto. Però dica Andrea, la sua idea? Le questioni di Lana Caprina, il sesso degli angeli, questo insomma devi servire ai filosofi. Io vorrei sapere proprio nudo e crudo, schiettamente, dal pianista Malan. Sì. Insomma, l'abolisce o non lo abolisce? Non lo sa, non lo sa, non lo sa, Andrea. Mancano 5 ore, dice non ho il testo e quindi non lo sa. Ma oggi lo dovrà comunicare con un voto, quindi Andrea abbia pazienza, 24 ore, domani glielo dirò. Roberto da Padova, buongiorno Roberto. Eccola qui, buona giornata a voi. Allora, che cosa può pensare un cittadino tranquillo, normale, che lavora, che viaggia e sente queste cose al telefono in riferimento a questo Parlamento e a questi parlamentari? Sì. Punto 1. Hai rubato? Sei stato condannato? E ne devi andare a casa. Vabbè, infatti stiamo parlando di persone condannate, alcune stanno scontando la pena in carcere. Ma cos'è sto vitalizio? Ma se in una fabbrica uno ruba, se in un'azienda uno ruba, cosa fanno? Gli continuano a dare lo stipendio? La gente in auto, quando viaggia come me, e sente queste cose, si arrabbia, si riempie di rabbia e tiene le mani sul volante. Lo so, Roberto, è così. Però attenzione, perché se è tecnicamente assimilabile a una pensione, è un diritto la pensione, non è che se uno viene condannato durante la vita perde il diritto alla pensione. Però io, sapete tanto come la penso, Roberto, staremo a vedere. Intanto è il nostro momento. Lavoratori! Dei lavoratori! Coloro che ci scrivono a 24 mattino e radio24.it e ci raccontano il proprio lavoro. E oggi saluto Valerio. Valerio è un collega. Buongiorno Valerio. Buongiorno, collega mi sembra un po' una parolona. No, vabbè, Valerio è un giornalista. Mi ha scritto, sono un giornalista, com'è che ti sei definito? Videoludico? Come, dimmelo tu? Giornalista videoludico, sì. Videoludico. Definiamo un po' così. Videoludico, cioè Valerio tecnicamente prova tutto il giorno, sta davanti ai videogiochi. Quella cosa che se fosse mio figlio alla prima ora gli arriverebbe uno scappellotto, ma mio figlio ha 6 anni. Valerio, tu cosa fai? Sì, praticamente questo. Io mi occupo di recensire videogiochi. Recensire videogiochi. Esatto, li provo in anteprima. E poi scrivo un articolo, spesso faccio anche dei video dove spiego come sono e niente, poi con la gente che ci si confronta sui forum e così e la gente decide se il gioco gli piacerà oppure no, lo comprerà. Allora, il nostro regista Peter Bescapè dice: era il sogno mio fare questo lavoro, ma è vero, Cioè passi tutto il giorno con la console, PlayStation, le robe, no? Diciamo che poi in realtà il lavoro è un po' più complesso perché comunque insieme ad altri colleghi gestisco un sito, quindi sì, facciamo notizie, scriviamo speciali, quindi poi... Diccelo cos'è questo sito, fatti pubblicità, che sito è? Mi faccio pubblicità, sì, il sito si chiama gamesurf.it, è del portale di Tiscali dedicato all'intrattenimento, quindi parliamo anche di cinema, anche di TV. Gamesurf, surf come il surf, sì. Gamesurf.it, esatto. Esatto. Ma è un bel mercato, no, quello dei videogiochi ancora? Sì, è un bel mercato. Il lavoro che faccio io è un po' di nicchia, nel senso che comunque, come potete immaginare, non è che è un po' difficile riuscire ad entrarci, c'è tantissima richiesta, ovviamente. È il lavoro dei sogni di tutti quanti. È il sogno di tutti, però tutto il giorno a provare videogiochi, dai, su, parliamoci, che sei lì a... Qual è il videogioco più bello della storia? Cos'è? Pac-Man, no? Qual è? Adesso ovviamente... No. Qual è il proprio sul vecchissimo. Sul vecchissimo, sì. Qual è il più bello che proprio ti ha emozionato quando l'hai visto? Tantissimi. Recentemente uno gioco bellissimo si chiama The Last of Us, che, che racconta una storia molto drammatica. Di che è? The Last of Us. Ah, The Last of Us, cioè l'ultimo di noi? Esatto. Mannaggia. Esatto. Un po', ricorda un po' The Road, film con Viggo Mortensen, non so se... Fantastico, fantastico. Vabbè, ma Valerio, non lo so, fai il lavoro che è il sogno di moltissimi. Avete anche un sito, gamesurf.it. Valerio è un giornalista videoludico, cioè prova i videogiochi e poi li recensisce. Caro Valerio, con te chiudo questa trasmissione anche oggi. Scrivete il vostro lavoro a 24 mattino e tradio 24.it. Noi vi racconteremo queste cose molto, molto. Mi dicono che questa sia la base del gioco The Last of Us. Addirittura, vabbè, sì. Per intenditori, a domani. Certo che si può sapere che lavoro faccio. È molto semplice, va. Un cazzo.